La scrittrice Barbara Alberti ha scelto l'esilio. Era da tempo nota la sua decisione di ritirarsi dal mondo. Vive nel faro di Capo Finisterre, all'estremo occidente della Spagna. Da questo luogo, l'esule Barbara Alberti continuerà a tenere vivo il contatto con le donne che la interpellano per consigli in questione di cuore e qualche suo raro amico. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поёшь. La guardiana del faro. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовёшь. Voci e pensieri per Barbara Alberti. Шагаю еле еле. Io lo so che Tabaccheria di Fernando Pessoa l'ho già letta, però l'ho letta. Ci sono delle volte in cui le poesie si leggono e ci sono delle volte in cui ti rappresentano completamente. Ecco, oggi devo proprio rileggere questa poesia. Oggi sono vinto, come se sapessi la verità. Oggi sono lucido, come se stessi per morire e non avessi altra fratellanza con le cose che un commiato, e questa casa e questo lato della strada diventassero la fila di vetture di un treno e una partenza fischiata dietro la mia testa e un sussulto dei nervi e uno scricchiolar d'ossa nell'avvio. Oggi sono perplesso, come chi ha pensato e trovato e dimenticato. Oggi sono diviso fra la lealtà che devo alla tabaccheria dall'altra parte della strada, come cosa reale di fuori, e alla sensazione che tutto è sogno, come cosa reale di dentro. Come quelli che invocano spiriti, invocano spiriti, invoco me stesso e non trovo niente. Mi accosto alla finestra e vedo la strada con una nitidezza assoluta. Vedo i negozi, i marciapiedi, le carrozze che passano, vedo i cani che anch'essi esistono. E tutto questo mi pesa come una condanna all'esilio. E tutto questo mi è estraneo, come tutto. Ho buttato via la maschera e ho dormito nello spogliatoio, come un cane tollerato dalla direzione, perché inoffensivo. E scriverò questa storia per provare che sono sublime. Sempre una cosa davanti all'altra, sempre una cosa inutile quanto l'altra, sempre l'impossibile, tanto stupido quanto il reale, sempre il mistero del fondo tanto certo quanto il sonno di mistero della superficie, sempre questo o sempre un'altra cosa, o né una cosa né l'altra. Poi mi getto indietro sulla sedia e continuo a fumare finché il destino me lo concederà. Continuerò a fumare. Invece ho l'impressione che il destino me lo sta un po' proibendo. È in arrivo un messaggio nella bottiglia per Barbara Alberti. Mi sposo con lui contro la volontà dei miei, convinta del grande incontro, di una complicità duratura. Lui mi ama per un paio d'anni. Dopo il primo figlio, già mi mette da parte. Divento una funzione domestica. Finché, crisi dei 45 anni, si sente vecchio, perde la testa per una ventenne, mi lascia per volare con lei nel nuovo nido, meticolosamente preparato alle mie spalle, mentre ancora non sapevo niente. Ma la ventenne, appena lo conosce bene, lo molla dopo 4 mesi e lui torna a casa, dice, per i figli. Io ho compassione di lui, così vanitoso, così fragile, ma ho fatto un patto di indipendenza, letti separati e finzione di cordialità. Lui i primi giorni mi ha un po' corteggiata, ma era un trucco. Sta soffrendo per l'altra e avrebbe preteso di essere compatito. Voleva che diventassi la confidente e la consolatrice del suo amore infelice. Un po' troppo. Quanto ai figli, nella sua condizione di adolescente innamorato e respinto, non li sopporta. Appena giocano un po' rumorosamente, si arrabbia e dice che è colpa mia. Ho un lavoro, sono bella, ho 12 anni meno di lui, non lo stimo più, mi annoia. Gli ho detto con calma che penso a una separazione, ma lui pensa ai figli. Sono tornato per loro. Pensa che trauma. Beh, però quando è corso dietro la ragazzina, mica ci ha pensato ai figli. Ci pensa adesso che si vuole tenere stretto la tana, dopo che è uscito, è volato fuori ed è precipitato in volo, si è rotto il muso. Il ritorno dei mariti è una piaga sociale, come sempre quando arriva una lettera così. Cito un libro, il mio libro appunto, Il ritorno dei mariti, pubblicato con Mondadori 7 anni fa, e avevo scritto questo libro su questa grande epidemia, questo ritorno dei mariti, e sulla fascetta c'era scritto: sì, i mariti ritornano come un esercito in rotta, anche quelli che se ne sono andati nel modo più imperdonabile tornano prima o poi dalle mogli, promuovendole madri. Tornano peggiorati, pieni di pretese, sconquassando menage felici e solitudini perfette. E il bello è, questo è il fenomeno più inquietante, che le mogli se li ripigliano, pronte a qualsiasi sacrificio pur di dire mio marito, all'idraulico, al panettiere, alle amiche. Questo libro era una commedia insolente e scostumata su amore, famiglia, corna. I maschi ci fanno una figuraccia, l'unico simpatico è muto. Perché una delle cose tipiche del marito che torna, dopo che la ragazza li ha conosciuti meglio e li ha mollati: torno per i figli. Tuo marito non è tornato per i figli, ma per debolezza, perché è lui il figlio. Oh, posti poveri figli sono sempre l'alibi per tutto. Sono il pretesto delle azioni più nefande che fanno i genitori. Stare insieme per loro vuol dire imporre una tensione, un veleno che passa attraverso la commedia, che poi non sarà una commedia perfetta. Oh, ammesso che poi appunto voi siete in grado di sostenerla questa commedia, ma anche imponendosi la massima disciplina, il disamore si sente, è come una fuga di gas, non si vede ma ti soffoca, e a un figlio anche di 2 anni lo trapassano. Io sono magari per lasciarsi, un giorno chissà rincontrarsi, perché a volte ci sono delle crisi che devono essere delle pause, ma il vostro matrimonio, per come lo racconti tu, è un coccio rotto, ma perché insistere? Io mi ricordo mio padre e mia madre che litigavano, e noi figli in ginocchio li pregavamo di separarsi, perché tenere la famiglia unita nella sopraffazione e nell'ignominia non giova a nessuno. Ora, io non credo che la sanità mentale del figlio sia garantita dal vivere in un presepe posticcio. La caratteristica dell'amore, come dell'odio, è che si sentono. Magari non litigate, ma mancherà il calore, e cresceranno davanti a un caminetto elettrico. E mancherà l'unica cosa che ci rende vivi, che è la fiamma. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. Шарманка, шарлатанка, как сладко ты поешь. Шарманка, шарлатанка, куда меня зовешь? Tempo fa abbiamo letto un fabliau medievale dove un giullare va all'inferno e quando arriva Lucifero lo interroga e gli dice: ma tu sei ladro, spia, assassina, che sai fare? E quando scopre che un artista, cioè un buon a nulla, secondo il diavolo, lo mette ad alimentare il fuoco sotto la caldaia dove devono bollire per l'eternità alcuni milioni di anime. Poi Lucifero se ne va, lui e i suoi vanno a caccia e lasciano il giullare di guardia alla caldaia. Egli dice, prima di andare via, al diavolo: sta attento perché ne risponderai con la tua testa, e se ne manca uno solo. Ma dal paradiso San Pietro sta in agguato e ha sentito tutto. Si traveste, si mette un barbone e si cala all'inferno. E propone al giullare una partita a dadi, perché sa che lui è un appassionato di gioco d'azzardo, e rovescia sul tavolo una borsa di monete d'oro e d'argento. E il giullare dice: ma io non ho niente. Ma come, hai le anime? Dai, giocane qualcuna. E lo persuade ad usare le anime. Il giullare non sa che sta giocando con un santo, cioè con uno che ha i superpoteri, praticamente bara, perché lui non può perdere San Pietro, e vince, vince, vince, e il giullare perde, perde, perde. E alla fine si gioca prima un'anima, poi un'altra. San Pietro dice: ma dai, tanto non se ne accorgono, un'anima qua, un'anima là. E invece ne ha perse tante. E allora, disperato, come tutti i giocatori, tenta il colpo e dice: via, giochiamoci tutto in una botta sola. Inutile dire che perde. E allora San Pietro raccatta il suo esercito di anime, le ritira dalla caldaia, dal fuoco, dalla pece bollente e se li porta tutti in paradiso. Naturalmente il diavolo si arrabbia moltissimo, col giullare lo caccia dall'inferno e, come benemerito ed eroe di questa liberazione, San Pietro lo accoglierà a braccia aperte. E nella mia inquieta ignoranza, io pensavo che il tema di un'amnistia dei dannati e del poter scampare tutti all'inferno fosse un tema cristiano. E invece scopro da un libro che è appena uscito che l'argomento ha travagliato tutte le religioni monoteistiche e non. Il libro si chiama Inferni temporanei, che già è un titolo di speranza, è uscito con Carocci Editore ed è a cura di Maria Chiara Migliore e di Samuela Pagani. Che ci portano negli inferni del Giappone, della Cina prebuddista, dell'India induista, dell'inferno bizantino? E la domanda di fondo sull'esistenza dell'inferno, sull'eternità dell'inferno è: come può un Dio perfetto, che sia Allah o che sia Yahweh, creare una tortura eterna? Un creatore che crea l'inferno eterno condanna se stesso. E in questo libro è tutto un turbinare di contrattazioni tra figure luminose come Muhammad, che noi chiamiamo Maometto, o la Vergine Maria, e i diavoli, fra chi vuole liberare le creature del fuoco e chi vuole che brucino per l'eternità. E questo nel mondo degli spiriti, mentre nel mondo degli uomini è tutta una guerra fra mistici sullo stesso argomento, un duello infinito, a volte anche comico, tra inferno sì e inferno no, tra giustizia e misericordia. Io sono molto sensibile all'inferno, perché sono cresciuta tra integralisti cattolici che lo usavano come minaccia appena rispondevi male alla nonna, e in questo libro mi sono trovato a casa. In letteratura poi è pieno di esempi famosi di lotte fra angeli e diavoli per un'anima, però per un'anima singola, per esempio nel Quinto del Purgatorio, quando Buonconte da Montefeltro racconta a Dante suo nemico politico e avversario nella battaglia di Campaldino, perché sta lì invece che all'inferno, perché in punto di morte ha invocato la Madonna e l'angel di Dio mi prese e quel d'inferno gridava: «O tu del ciel, perché mi privi? Tu te ne porti di costui all'eterno per una lagrimetta che il mi toglie». E il diavolo si vendica, infierisce sul corpo di Buonconte. Un altro episodio famoso è quando, nel finale del secondo Fausto di Goethe, quando c'è un'altra rissa tra angeli e diavoli per l'anima di Fausto, e gli angeli se la cavano in maniera molto pagana, girandosi, mostrando le terga a Mefistofele, che è abbagliato dalla lussuria, perde la tramontana, e loro con destrezza gli rubano l'anima di Fausto. Invece in Inferni temporanei, in questo libro, niente di tutto questo. Qui siamo spesso direttamente all'inferno, tra le pene terribili che può inventare solo il sadismo umano, attribuendole a Dio e confermando, molto prima di Voltaire, l'idea che ci abbia creato il diavolo. Questo dal capitolo sull'inferno musulmano a cura di Samuela Pagani. Il fuoco che tormenta i dannati non li consuma, perché non appena la loro pelle sarà cotta dalla fiamma, la cambieranno, a che meglio gustino il tormento. Perciò nemmeno il loro desiderio di morte sarà soddisfatto, e grideranno: «O Malik, che il tuo Signore ci finisca!» Ed Dei risponderà: «No, vi resterete vivi». E poi ci porta in Cina, dove la giustizia dell'inferno è usata come strumento di minaccia, come anche dai cristiani d'altronde, da parte delle autorità politico-religiose. E in Cina, uno Stato dotato da un sistema politico e giudiziario complesso, si raffigura l'aldilà come un regno burocratizzato, identico a quello della Terra. Ma la notizia più sorprendente viene dall'India. A cura di Federico Squarcini, Ashoka, spingendo all'estremo il principio dell'equivalenza della punizione terrena di potere con quella ultraterrena, cosa fa questo sovrano dell'impero Maurya? Giunge a imitare in questo mondo castighi ultraterreni, ovvero sia crea una prigione sul modello di quella infernale e offre al popolo spettacolo di fuochi, ovvero sia tortura, tormenta e uccide i suoi sudditi con la scusa di spettacolarizzare l'inferno. E poi nell'Irlanda medievale, a cura di Francesco Minetti, il mancato pagamento delle decime alla Chiesa è un peccato economico-politico che meriterà i castighi più severi dell'inferno, ovvero se non dai le decime alla Chiesa, se non dai i soldi ai preti, il diavolo ti acchiapperà per un orecchio e non ti salverai più. E in tutto questo c'è anche il lato umoristico, nonostante i tormenti. Spesso questo spettacolo dei tormenti si muta in commedia. Qui è sempre il capitolo sull'Islam. Secondo Ibn Arabi, il più audace e più grande mistico del XIII secolo, l'inferno è stato creato da una parabola. All'inferno c'è fame, perché Dio l'ha creata dal fulgore della sua parola, riferita nella raccolta di tradizioni autentiche di Muslim. Avevo fame, questo è Dio che parla, avevo fame e tu non mi hai sfamato, avevo sete e tu non mi hai dissetato, mi sono ammalato e tu non sei venuto a visitarmi. Questa è la più formidabile rivelazione personale con cui Dio sia disceso verso i suoi servi, nella sua dolcezza verso di loro. Da questa realtà è stato creato l'inferno, che Dio ce ne scampi a me e a voi. E poi, dato di altissima civiltà, il Corano esclude raccomandazioni parentele. Senz'altro esclusa è pertanto la possibilità di un'intercessione che sottragga collettivamente all'inferno la posterità di un profeta. Cioè non vale che tu discenda direttamente dal profeta. Se sei stato cattivo avrai la tua punizione. E cita una nota interessante di Platone. Platone aveva suggerito un discrimine puramente politico fra colpa riparabile e irreparabile. Incurabili sono essenzialmente i potenti e i governanti, destinati a un castigo esemplare in un inferno eterno. Già da allora i politici meritavano un inferno, questo dal Gorgia. E numerosi sono gli episodi in cui appunto delle anime elette trattano per liberare collettivamente, oltre alle amnistie, i salvatori chiedono le ferie dei dannati. C'è un episodio di un colloquio intimo con Dio durante il quale Muhammad riceve grazie superiori a quelle di tutti gli altri profeti e in primo luogo la promessa della salvezza per i credenti. L'Islam ha conservato molte concezioni che anticipano il purgatorio della teologia cattolica, però qui c'è un dato incantevole secondo me. A differenza di questa, dove l'inferno, inferno, il purgatorio, purgatorio, c'è un muro tra i dannati, i purganti e i beati, invece nell'inferno dell'Islam c'è una mancata delimitazione del purgatorio e fa sì che la frontiera tra paradiso e inferno resti porosa. Quindi offre ai dannati la possibilità di evasione, sgretola oggi, sgretola domani, possono salvarsi sotto l'occhio benevolo di Dio. Ma la cosa che smaschera come tutte queste punizioni e premi siano invenzioni umane viene data dal fatto che i dannati cercano di commuovere i beati e loro invece gli ridono in faccia. Vengono sfottuti dai beati, quelli del fuoco chiedono aiuto a quelli del giardino, ovvero i dannati in questo inferno islamico chiedono aiuto ai beati che sono invece nel giardino e quelli li prendono in giro con la stessa spietatezza della cicala e la formica. Invano i dannati supplicheranno di uscire dall'inferno e ogni qualvolta vorranno, afflitti dall'agonia, uscire vi saranno ricacciati al grido «Gustate ora il tormento del fuoco bruciante!» Ed essi grideranno «Aiuto, Signor nostro!» Facci uscire e faremo del bene, non faremo più quel che prima facemmo. E la risposta, ma non vi abbiamo dato forse lunga vita, sì che chi volesse riflettere tra voi lo potesse? Gustate ora adunque. E invano chiederanno refrigerio ai beati. E quei del giardino chiameranno con grida quelli del fuoco. E gli dicono, noi stiamo benissimo, abbiamo trovato qui appunto quello che il Signore ci aveva promesso per le nostre buone azioni e avete voi trovato quel che il Signore vostro aveva promesso a voi, cioè i tormenti. E i dannati poveracci urlano, sì, e quelli del fuoco chiameranno verso quelli del giardino, versate su di noi dell'acqua. E i beati ridono e passando loro vicino s'ammiccan con gli occhi e tornandosene a casa si burlano di loro per via. E una delle clemenze di questi testi religiosi è che spesso finisce in burla, finisce in comicità. Dio si diverte abbastanza crudelmente con l'ultimo dannato. C'è stata questa amnistia generale, i dannati stanno uscendo dall'inferno e lui fa finta di voler trattenere lì l'ultimo dei dannati, ridotto malissimo, tutto bruciacchiato, finché alla fine lo fa entrare. Dove la crudele burla retributiva è trasformata in una commedia salvifica che si conclude con il riso di Dio. Finalmente anche Dio ride e questo annulla l'inferno. Puoi inviare il tuo messaggio nella bottiglia alla mail laguardiana@radio24.it. Oggi vorrei fare qualche domanda a Mariano Sabatini, un grande orso russo di pelo nero, un giovanottone leale, affettuoso, che vive con tre donne, oltre che serenamente pieno di talento. Il suo curriculum, come direbbe Carlo D'Amicis, è lungo come una quaresima, anche se poi è una festa. Lui ha cominciato da ragazzino con Tappeto Volante, con Luciano Rispoli, che ha sempre riconosciuto e celebrato come suo maestro. E poi televisione, radio, giornalismo, libri, di cui voglio ricordare Trucchi d'autore, che era interviste a grandi giornalisti e scrittori. Ma la sua attività che più mi impressiona per la lucidità e l'indipendenza è quella di critico televisivo sul quotidiano Metro. Ogni tanto lo chiamiamo dal Faro per sapere come sta, perché siamo preoccupati per lui, perché la sua continuità in questo lavoro ci inquieta. Io ho sempre paura che ne risenta. E invece è molto interessante leggerlo, perché nel tempo non si vede in filigrana mai apparire il disegno di qualche interessuccio personale, losco o almeno furbesco. Mariano si esprime con la massima libertà, come se vivesse nell'Eden e nessuno potesse né giudicarlo né vendicarsi. Io ho sempre pensato che il mestiere di critico televisivo possa durare al massimo 5 anni, prima di esserne gravemente danneggiati, perché sono pochi quelli che riescono a uscirne indenni. Perché dopo un po' che stai lì davanti, quel modo di organizzare il pensiero, che sono i nostri, non dico la TV in generale, che è uno strumento neutro, ma proprio come viene usato da noi, dopo un po' quella forma di pensiero, cioè di non pensiero, ti contagia. E invece Sabatini continua sempre a non risparmiare nessuno e ad avere una mente vigile. Prego la Capitaneria di Porto di mettermi in contatto con Mariano Sabatini. Qui Capitaneria di Porto. Come richiesto, il critico televisivo Mariano Sabatini è in collegamento. Barbara Alberti è autorizzata a parlarci. Pronto, Mariano? Pronto, eccomi qui. Stavo parlando bene di te. Senti, poi, io vorrei farti una domanda, perché non solo fai il critico, ma come un pastore maremmano, no? Che abbia affetto per il gregge della Rai sbandata, e anche di Mediaset, ogni tanto dai dei consigli. E tu hai scritto, ma io vorrei sapere cosa c'entrano Tobagi e Colombo con la Rai, bravissime persone, bravissime nel loro mestiere. Tu dicevi a un certo punto, ma io ci vedrei per esempio bene Enza Sampò. Se donna da essere, che ha attraversato la storia della TV senza mai compromettersi coi giochi perversi delle fazioni politiche, penso ad Enza Sampò, sulla quale mai potrebbe adombrarsi il sospetto di non adeguatezza nel ruolo di direttore generale, presidente o anche direttore di rete. Sarebbe la persona giusta al posto giusto. Non accadrà mai, comunque. Ti hanno mai dato retta questi qua? Non accadrà mai che Enza Sampò occupi queste poltrone, chiamiamole così, perché è la persona giusta al posto giusto, proprio per quello. E il criterio sembrerebbe essere invece tutt'altro, quello di individuare persone outsider oppure giovani. Ecco, questo giovanilismo a tutti i costi mi dà ribrezzo. Eh sì, perché per esempio Margherita Hack ha 90 anni e la Minetti ne ha 25. Cioè, sì, perché dire, poi delle volte si è più vecchi. Io per esempio sono nato vecchio, ringiovanisco col tempo. Si è più vecchi a 20 e 30 anni che non a 70, come Scusa. Ho fatto un esempio, Enza Sampò. Mi ascoltano? Per fortuna no, perché se ascoltassero me sarei schiantato dalla responsabilità. Ho fatto la televisione, quindi so quale lavoro improbo c'è dietro, quali compromessi, quali fatiche, anche soltanto nell'individuazione di un ospite, nel percorrere un'idea, eccetera. C'è una grande fatica, quindi ho un grande rispetto per chi fa la televisione e sostanzialmente un grande amore per il mezzo che mi fa piacere tu abbia definito neutro, perché l'odio che sentiamo spirare nei confronti della televisione è mal indirizzato, perché non è la televisione in quanto strumento. Per me la televisione è una finestra per guardare il mondo, un po' filtrato, ma insomma è un mondo che ci viene restituito quotidianamente. Intanto mi è molto piaciuta la tua deprecazione della Rai quando si sono lasciati scappare Santoro, ecco. Ecco, io penso che Santoro adesso ha firmato con la 7, quindi questa prossima stagione lo vedremo sulla 7, che è sempre di più una dependance della Rai, un refugio, un peccatorum per i reietti, per quelli che vengono allontanati, quasi sempre senza dolo. Non tutti poi esprimono una televisione creativa, per esempio penso a Serena Dandini, che secondo me è molto sopravvalutata. Sì, ho letto spesso i tuoi la sua pezzi. Stagione d'oro l'ha abbastanza alle spalle. Però devo dire che ogni volta che ho aperto sulla Dandini scoppiavo a ridere come una pazza, c'erano dei comici straordinari. Sì, lei è un'aggregatrice di talenti, però il talento assoluto l'ha individuato anni fa ed era Corrado Guzzanti, che adesso vive emarginato su Sky e fa delle cose ogni tanto. È quello che secondo grande, me dal grande punto di vista poeta della satira, lui e la sorella, dell'intuizione satirica è quello più dotato, perché soprattutto non è legato all'attualità, alla cronaca, non si lascia trascinare nelle cose piccole della politica, insomma dà una visione alta, esterna ed eccentrica da questo punto di vista. E invece Santoro, che è antipatico come nessuno, a me no, veramente, che vive per il guadagno, che fa delle scelte molto esose. Sì, però senti, a me non importano i moventi di chi prende la Bastiglia, l'importante è che la prenda anche per me. Assolutamente. E lui è, fa un giornalismo, mi viene da dire, ispirato. È un giornalismo. Sì. E poi senti, poi abbiamo delle gratitudini verso di lui. Dico, pensa veramente all'unica voce che abbiamo avuto durante la cosiddetta guerra contro la Jugoslavia, cosiddetta, come si chiamava, guerra umanitaria. Dai, è stato un momento indimenticabile sul ponte di Belgrado. E poi è uno inviso tanto a destra quanto a sinistra. E questo è un buon segno. I suoi nemici si annoverano anche nelle file di quelli che immagineremo invece essere i suoi supporters. Beh, anche perché poi c'è questa grazia divina che è l'umanità, che sempre l'invidia in ogni caso. Senti, certo. E poi comunque tocchi sempre gli intoccabili, tocchi Costanzo, tocchi la Di Filippi, ma in maniera anche molto, ma molto urticante. E poi anche ho visto Fazio e Saviano. Oddio, devo dire, Saviano ultimamente non è più intoccabile, anzi è toccatissimo. Ma c'è questo sottotitolo, no, vi prego, Saviano a Sanremo, risparmiatecelo. Potrebbe venirgli in mente di proporsi come rapper. Ecco, illustraci questa tua posizione. Beh, lui è un po' un rapper ideologico, diciamo così, perché più che Fazio e Saviano è Fazio quello che mi suscita dei dubbi. È un bravo maggiordomo, è come Baldo. Certe volte viene da dire all'indirizzo della televisione di qualcosa Fazio, è un Rispoli fuori tempo massimo, perché Rispoli queste cose le faceva 20 anni fa, e poi è sopravvalutato, perché insomma quello che mi dà fastidio di Fazio è che non invita nessuno che non abbia già compiuto 100 anni, che non abbia avuto un Nobel, che non abbia 7 Oscar nel suo carniere, insomma un po' di coraggio in più nel individuare nuovi personaggi, nuovi scrittori, ecco, questo sarebbe gradito soprattutto da uno che ha una potenza mediatica come la sua. Mentre invece Saviano spero davvero che non vada a Sanremo, perché deve rimanere comunque un personaggio un po' ai margini. Però aspetta, io ho un'impressione, a parte che io considero Gomorra un immenso capolavoro della letteratura italiana, se la Camorra lo ha condannato, cioè se lui è costretto ad andare con la scorta, certo. e la Camorra lo ha puntato, non è soltanto perché lui ha scritto i nomi, è come, è la certo. voce, perché questa voce potente, questa voce biblica che è uscita da Saviano, quello Vero. Sì che colpisce la Camorra, e quindi io mi inchinerò fino alla morte davanti a Saviano. Certo. E l'impressione mia, questo suo attaccamento mediatico, questo suo andare in televisione, questo suo farsi vedere, questo suo apparire, secondo me, sai cos'è? È frutto della solitudine. Ho l'impressione, guarda che è atroce, ormai sono anni e anni che lui non fa un sì. passo senza la scorta, perché poi ormai sono tutti invidiosi della scorta, no? Come se fosse uno status symbol. E io credo che questo gli crea una tale isolamento che farsi vedere è l'unico modo per avere una vita sociale traslata attraverso gli spettatori. Questa è la mia impressione. Sì, ma io sono d'accordo, infatti ho fatto il distinguo tra Fazio e Saviano. Fazio è la spalla della Littizzetto. Sì, sì, certo. È uno che per la audience ha accettato per anni e anni di essere la spalla della Littizzetto, il pupazzo che si lascia fuori dal carrozzone dei suonatori, e perché quando lei gli dice le cose che gli dice, non è che scherza, lei lo pensa veramente. E questa è una prova molto dura, una prova di grande disciplina spettacolare dalla parte di Fazio. E tu tra l'altro, caro Sabatini, a volte mi fai battere il cuore di gioia, altre volte mi dispiaci molto, dispiaci anche me che sono una sostenitrice, perché mi tocchi delle persone come la Littizzetto. Tu scrivi, Luciana Littizzetto, portatrice sana di turpiloquio da cioccolateria torinese, perturbante quel tanto che basta, senza sfracelli. Ma è così, però, è così. È vero, no, lei, no, mentre considero i Guzzanti, tutti e due i fratelli, dei rivoluzionari, la Littizzetto è una guastatrice, però butta via. E sai perché anche? Perché secondo me lei ha molta grazia, ha inventato una maschera di donna italiana assolutamente inesistente. Ma è per quello, io per esempio, è perturbante quel tanto che basta, io cioè però, guarda, quello dico, che serve a non far gridare allo scandalo. Però perché vedi, nella vita e per iscritto, io uso liberamente tutto il vocabolario, comprese tutte le più atroci parolacce, cosiddette parolacce del mondo. Certo. Però vedi, alla radio o in televisione, io non lo sostengo questo, non posso sostenerlo. Ci vuole una grazia particolare per sostenere questo, e secondo me la Littizzetto ce l'ha. Sono d'accordo, quindi. Poi senti, non vedo l'ora che esca da questo editore, il cui nome mi piace enormemente perché è veramente da bambini, Lupetti. Sì. Con l'editore Lupetti esce, è la TV bellezza, se la conosci puoi difenderti. Ecco, questa è un po' la chiave del lavoro che faccio, perché io penso che scrivendo quello che scrivo su Metro, su Tiscali Notizie, eccetera, cerco di provocare, di anche suscitare un sorriso, ma sostanzialmente cerco nel mio piccolo di aiutare i telespettatori a trovare un percorso nel mare magnum dei palinsesti, perché le televisioni si moltiplicano col digitale, con il satellitare, a trovare un percorso e in qualche modo a difendersi dalla televisione, che continua però ad offrire tante cose belle, tante cose positive, tanti documentari, tanti programmi appassionati. Senti, comunque la verità, caro Mariano, per me almeno, è che tu sei un grande moralista e un grande predicatore, ed è per questo che mi piaci. Signor Presidente della Repubblica, sono un cittadino di 56 anni, residente in un edificio di proprietà dello Stato che lei rappresenta, e le chiedo di essere aiutato a morire. Se lei ha un cuore, dovrebbe esaudire l'insano desiderio. Lavoro in biblioteca a 26 euro al mese. La casa in cui abito misura 3,5 passi in lunghezza e 3 passi in larghezza, bagno compreso, e ha il letto inchiodato al pavimento. Si entra dal monolocale da un cancello. Dietro il cancello un blindato che viene aperto al mattino e chiuso la sera. Al centro del blindato uno spioncino. Perché io, Carmelo Musumeci, sono detenuto per associazione a delinquere, vado guardato a vista e non posso stare con altri reclusi. Divido la cella solo col mio cuore. Questo è uno stralcio della lettera che il detenuto scrittore Carmelo Musumeci, di cui abbiamo parlato molte altre volte, ha scritto al Presidente della Repubblica, e lo tratta da un'intervista che è uscita il 10 giugno di quest'anno sul giornale, fatta dal giornalista Stefano Lorenzetto. Scrive Lorenzetto: Musumeci non si dichiara innocente né colpevole, semplicemente si accontenta di essere giudicato un uomo diverso. Sono stato punito per reati che non ho commesso e perdonato per reati che ho commesso. Carmelo Musumeci sconta l'ergastolo ostativo, che nega qualsiasi tipo di permesso, anche se c'è stata una eccezione quando gli hanno permesso di andare a prendersi la sua seconda laurea all'Università di Perugia. Mio padre era bracciante a giornata. Emigrò in Francia per fame. Mia madre faceva avanti e indietro. Nella mia famiglia l'amore era un lusso. Muratore a 9 anni, a 10 anni mi hanno messo in collegio, ma sono scappato. Dalla nonna ho imparato ciò che altri avevano insegnato lei, a rubare per sopravvivere. Mi riempì di botte in presenza del bottegaio che mi aveva pescato a sgraffignare. Poi a casa mi diede il resto, perché mi ero fatto scoprire. A che età, chiede Lorenzetto, commise il suo primo reato? Sono nato colpevole. Non ricordo l'età, ma l'episodio sì. Il furto di una pistola giocattolo esposta su una bancarella. Assomigliava a quella vera che teneva nascosta mio zio. Ho imparato a rubare prima ancora di scrivere, forse prima di parlare. E il giornalista gli domanda, riferendosi anche alla lettera che lui ha scritto al presidente Napolitano dicendo «mi faccia la carità di farmi morire», gli chiede «è favorevole alla pena di morte?» e lui risponde «credo sia meglio morire una volta sola che tutti i giorni». Carmelo Musumeci è entrato in prigione, che aveva la quinta elementare, e adesso ha 2 lauree, ha studiato in carcere. Perché ha deciso di laurearsi in giurisprudenza? Per lottare meglio contro l'assassino dei sogni, come io chiamo il carcere, che è il più grande criminale che il mondo abbia mai partorito. Voglio costringerlo a rispettare le sue stesse leggi e anche difendere i miei diritti e quelli dei miei compagni. Sono entrato in galera con la quinta elementare e ho preso la licenza media. Poi, quando ero sottoposto allo stato di tortura del regime 41 bis, nell'isola del diavolo della Sinara, ho iniziato a studiare da autodidatta, ma non mi davano i libri. Allora Giuliano, un maestro in pensione, strappava le pagine dei testi e me li mandava per lettera, pochi fogli alla volta. E poi finalmente viene il grande giorno, il giorno in cui appunto avrà 11 ore di libertà, il giorno in cui sarà, come ha raccontato poi, abbagliato dal sole, e il giornalista gli chiede: e durante la notte, prima di questa uscita, ha temuto di morire come Mosè, che poté contemplare la terra promessa dall'alto del Monte Nebo, ma non entrarci, è così? Sì, dovevo decidere se rientrare in carcere, sapendo che non avrei avuto mai più un'altra occasione simile. Il Tribunale di Sorveglianza concede il permesso di necessità una sola volta, per un evento unico e irripetibile. Oppure potevo scappare all'estero, godermi la libertà fino a quando non mi avessero preso. Ho pensato anche a una terza possibilità, impiccarmi a un albero prima di ritornare dentro, morendo così da uomo libero. Alla fine ho scelto di rientrare per fare un dispetto all'assassino dei sogni e dimostrare che sono migliore di lui. Quando conobbe Don Oreste Benzi, nel 2007 era venuto nel carcere di Spoleto. Pensavo che fosse il solito prete che sta solo dalla parte dei buoni. In quel periodo stavo organizzando il primo sciopero della fame collettivo in tutte le carceri d'Italia per l'abolizione dell'ergastolo. Gli chiesi se avesse il coraggio di schierarsi dalla parte dei criminali, dei più cattivi, appoggiando il nostro sciopero per far cancellare l'ignominia del fine pena mai. Lui mi rispose sì, l'uomo non è il suo errore. Carmelo ha il sollievo attraverso la scrittura di avere amici, lettori, molte persone che gli scrivono e pubblica con grandi editori. Parlando di lui parliamo anche di tutti gli altri oscuri che scontano non il carcere ma la tortura del carcere italiano. E quello che più mi meraviglia e mi indigna è che sono soltanto 67.000 e sembra impossibile che in un paese civile non si riesca a sistemarli decentemente, senza che debbano soffocare per mancanza di spazio, tanto per dire una delle torture. Oltre agli altri disagi tremendi condivisi con le guardie carcerarie, esasperate dalla scarsezza di mezzi e di personale, ciò che istiga alle sopraffazioni di cui parla Carmelo nei suoi libri. E di cui l'unica forza politica che sembra accorgersi dello scandalo sono i radicali. Questa volta parliamo di lui perché ha pubblicato un altro libro con Gabriele Editore che si intitola Zanna Blu. Zanna Blu è un lupo e nel retro del libro ci sono lui e Margherita Hack che ha scritto la prefazione. È un libro di favole per bambini e per adulti. È la storia delle incredibili avventure di Zanna Blu, un cucciolo di lupo abbandonato da mamma lupa perché non ce la faceva ad allattare tutti e quattro i suoi piccoli. Fu costretta a scegliere se farli morire tutti di fame o sacrificarne uno. Ma Zanna Blu, spaventato, solo e affamato, è salvato da un lupo mannaro, uomo o animale, non si sa bene. Alla sua morte, di nuovo solo, Zanna Blu incontra l'amore della sua vita, Lupa Bella. Catturato dagli uomini, legato a una slitta, frustato a sangue, Zanna Blu fugge, viene ripreso, ferito, ma sempre risorge, quasi immortale. L'autore di Zanna Blu non è altro che l'uomo vero del riscatto, colui che dal passato attinge forza per cambiare. E forse è anche il sogno di Bimbo che sperava davvero di essere un cucciolo abbandonato. Sarebbe stato più fortunato? Forse Musumeci bambino si sentiva davvero come un piccolo lupo lasciato lì alla deriva, in balia del mondo criminoso che poi lo ha inghiottito. Difficile dividere i due aspetti, ma è indubbio che nella serie di favole che raccontano le peripezie di Zanna Blu, Carmelo narra in realtà la sua vita, il suo anelito alla libertà, che è vivo in ognuno di noi. E Zanna Blu infatti è lui, Musumeci, e ogni capitolo è dedicato a una persona che ama, alla compagna, al figlio, all'amico. Questo lupo le passa tutte e all'ultimo momento l'autore lo salva sempre. E quando non sa più come salvarlo dalla morte, viene salvato apertamente dalla penna dello scrittore Carmelo, che gli permette di costeggiare il miracolo e lo fa tornare dall'aldilà. Con dei trucchi a volte incantevoli, come quando Coda Bianca, la figlia, lui è già morta, la sua anima sta già volando via, è già fuggita via, e la figlia decide di strapparlo alla morte e lo salva. In che modo? Scatenando la sua gelosia. Ovvero gli dice, Zanna Blu, tu non puoi morire, perché ti devo far conoscere un bel lupo che mi sta facendo la corte. E allora a questo punto Zanna Blu dall'aldilà fa un quadruplo salto mortale e torna nell'aldiquà. Era così geloso di sua figlia da vincere perfino la morte. Aprì gli occhi e vide la sua cucciola, ormai grande, e le ululò. E chi sarebbe questo tipo che ti gira intorno? Non mi avevi detto che ero l'unico? Quando sua madre lo abbandona perché non ha abbastanza latte, viene salvato da Lupo Mannaro, che ha questo largo sorriso, mezzo da lupo, mezzo da uomo. E Lupo Mannaro, che finora è sempre stato molto feroce, salvando questo cucciolo, diventa buono. Ed è allora che gli uomini uccidono il Lupo Mannaro. Scrive Musumeci, non potevano sopportare che fosse più buono di lui. Ciò detto, volevo intanto ricordare che Pannella sta scioperando, sciopero della fame e della sete per le condizioni delle carceri. Ha chiamato questo sciopero del silenzio, perché come dicono sia lui che Rita Bernardini, ormai abbiamo detto tutto. Sapete benissimo la situazione, perché ci sono da tacere e digiunare, sperando che questo abbia una qualche risultato. Margherita Hack, che ha scritto la prefazione a Zanna Blu, è la prima firmataria di una raccolta di firme sulla abolizione dell'ergastolo. E a questo proposito abbiamo in linea Nadia Bizzotto, che da 5 anni si prende cura di Carmelo Musumeci, quella che lui chiama il mio diavolo custode, e che ci spiega bene le modalità e il senso di questa iniziativa. Ciao Nadia! Ciao Barbara! Allora, noi volontari abbiamo creato un sito che si chiama www.carmelomusumeci.com e da qualche giorno abbiamo iniziato una raccolta di firme dove chiediamo al Parlamento legiferare contro l'abolizione dell'articolo 22 del Codice Penale che stabilisce la pena dell'ergastolo. Quello che vogliamo noi è un po' contarci, far vedere che non siamo così pochi e far vedere anche alla prossima legislatura che vale veramente la pena di abolire una pena così disumana. Dove quando chiediamo l'abolizione dell'ergastolo non è che diciamo facciamole a passare franca. Sostituire questa pena con 30-36 anni di carcere è già una pena fortissima. È chiaro che in questo modo diamo la possibilità alla gente di morire fuori e almeno di vivere con la speranza che un giorno può uscire, perché è questo il dramma grosso degli ergastolani, non sapere se morirà fuori. L'Italia è stata uno dei paesi che si è fatta promotrice per l'abolizione della pena di morte. È chiaro che tenere una persona murata viva fino alla morte non è molto diverso tra ammazzarla subito. Allora quello che chiediamo noi, e tra i primi firmatari c'è Margherita Hack, chiediamo la certezza di un fine pena, che non significa, ripeto, sconti di pena, significa soltanto dare una data anche fra 30 anni a una persona che ha fatto dei reati anche brutti, anche gravi, ma che abbia almeno la possibilità di pensarsi di morire tra i propri cari. Sì, firmerò per l'abolizione dell'ergastolo, però a patto che ci sia la certezza della pena, che poi questi 36 anni siano 36 anni, perché se io poi mi vedo in giro dopo poco tempo libero l'assassino di una persona amata, ecco, è un invito troppo sfacciato alla vendetta personale. L'ho detto altre volte, il delitto va onorato, onorato con una pena adeguata. Non si può essere complici del delitto. È il primo patto della civiltà non uccidersi gli uni con gli altri. Qui capitaneria di porto. Interrompiamo Barbara Alberti che parla dal faro di Finisterre. L'energia a disposizione è esaurita. Riattiveremo il collegamento tra una settimana. La Guardiana del Faro è un programma di Barbara Alberti, ideato da Gianluca Nicoletti, realizzazione tecnica di Valerio Rocchetti, a cura di Gloria Guerrera.